Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Ed eccomi ancora seduto al mio posto, ed eccomi ancora assorto dallo spettacolo del finestrino. Sto attraversando ancora una volta l'Emilia-Romagna, ma è gioco forza, è lo snodo indispensabile per attraversare il paese in treno, dal sud al nord, dal nord al sud, come faccio io ogni settimana, a vostro unico beneficio e anche per mio piacere. Osservavo quella donna con attenzione. A me sembrava una ragazza molto giovane, però in realtà c'era qualcosa di vissuto nel suo sguardo e soprattutto mi interessava la rivista che aveva in mano. Era di quelle riviste d'architettura strafighette, quelle che trattano di dimore storiche, di grandi case, di luoghi che possiamo soltanto sognare. E mi sembrava sproporzionata l'attenzione di questa ragazza per questa rivista e il suo vestire, non voglio dire dimesso, ma semplice, è totalmente casual. E quindi la mia curiosità ha fatto breccia nella sua attenzione. Ma dove stai andando? Sto tornando a casa. Beh, una casa come le altre, non mi pare. No, hai ragione. Vivo in un castello. E com'è finito in un castello? La principessa ti ci ha portato un principe? No, mi sono portato i miei genitori che si sono innamorati, come in una fiaba. Però. Cioè ti hanno regalato un castello? No, quando noi abitavamo a Milano, quando avevo 13 anni, mia sorella ne aveva 12, i miei genitori, che comunque da tanto avevano il sogno di andarsene via dalla città, hanno per caso scoperto che esisteva questo castello nel Piacentino, fra le colline, che veniva venduto. Cioè era un'occasione, un castello d'occasione. Beh, diciamo che sì, era una cosa un po' nebulosa, ma non hanno saputo più che altro resistere alla tentazione di andare a vedere di cosa si trattasse. Loro sono due sognatori, sono già nel loro incontro, diciamo, c'era stata una grossa parte di destino, di predestinazione quasi. Cioè fammi capire, me lo devi dire a questo punto, che è successo? Ma no, nel senso che loro comunque abitavano lontanissimi, si sono conosciuti per un puro caso fortuito perché mia madre aveva appena finito, diciamo, le superiori e doveva andare a Roma a fare un corso di informatica da Viterbo. Mio padre abitava e lavorava a Milano, ha dovuto sostituire un collega che si era ammalato ed è andato lui a tenere il corso completamente controvoglia perché non aveva nessuna voglia di andare lì in quel momento. Si sono conosciuti e avevano una decina d'anni di differenza, ovviamente, si sono detestati. E dopo una settimana erano innamorati, e però sono tornati una a Viterbo e l'altra a Milano. Questa cosa è continuata e in capo a un anno si sono sposati contro ovviamente la volontà di tutti, perché insomma lei doveva venire a vivere a Milano, i suoi genitori sicuramente non erano contenti, ma si è buttata in questa avventura con un semi sconosciuto quasi, perché insomma, vabbè, un principe azzurro, quindi questo era il destino, un principe, diciamo, azzurro, sì. E dopo, a questo punto, una quindicina d'anni, ovviamente lei si era ricostruita la sua vita lì e aveva fatto una certa carriera. Ma però non è che avesse fatto poi cambiato continente, da Viterbo a Milano. Beh, insomma, sì. Sì, il salto è notevole. Cambiamento. No, il salto è notevole, questo è chiaro, ma sì, sempre, diciamo, sempre in Italia è rimasta. Sì, assolutamente. Era un po' diverso, diciamo, il contesto al quale lei era abituata, quindi per lei la città, una città come Milano, la soffriva un pochino dal punto di vista delle atmosfere. Però e realtà... lui l'ha detto, sarai la mia principessa, ti porterò nel mio castello. No, è successo che da Milano, dopo appunto un po' di anni, mentre cercavano disperatamente una casa in campagna, sono venuti a conoscenza appunto del fatto che veniva venduto questo castello. Quante stanze ha il castello? Oddio, è difficile dirlo, devo dire la verità, non le abbiamo più o meno di 100. No, no, meno di 100. Piccolino, un castello raccolto. Ah, un castellino. Confortevole, arroccato sulla roccia, sì, sì, sì. Beh, ha visto questo castello e ha detto questo sarà mio. E hanno detto questo sarà nostro. Nostro. Assolutamente. Ma sempre assieme, costi. Bella storia assieme. D'amore. Sì. E poi hanno fatto di tutto, ma assolutamente di tutto, per riuscire a venirci a vivere, e questo è successo in capo a poco tempo. Sono riusciti a venire qua e ovviamente è stato questo un cambiamento radicale. E tu vivi con loro? Ti hanno portato dietro? Sì, certo, io e mia sorella siamo venute qua. Voi avete la vostra stanzetta da principessine, come funziona? No, diciamo che il castello è un castello molto antico, è diviso quasi in quartieri, quindi più o meno ognuno ha trovato il suo spazio. Dopo un po' il periodo di assestamento durato qualche anno, adesso che io e mia sorella siamo grandine, e ovviamente ci siamo ricavate ognuna il suo spazio. Cioè tu quanti metri quadri hai a tua disposizione? Io ho un piano e mezzo. Quindi 200-300 metri quadri? Mica ti devi essere, meno. Mica devi no, essere non timida. Timida. Non sono timida, non riesco a quantificare. Fammi sognare. Io ho un paio di piani che a seconda delle stagioni si espandono, si restringono, perché ovviamente insomma l'inverno fa freddo nel castello. Ah, perché quando piove si allargano, fammi capire. No, no, per l'amor del cielo, speriamo di no. No, no, no, diciamo che non c'è il riscaldamento normale che ci può essere in una casa confortevole e moderna. E ti porti la legna in casa e ti accendi il tuo camino, ti accendi la tua stufetta. Beh, almeno questo è qualcosa. Beh, certo, ma assolutamente. E quindi vivi nel castello. Senti, ma sarà molto difficile avvicinarsi a te per una persona normale? Ci vieni a trovare nel mio castello? Questo, se non ha una carrozza con i cavalli, non si può nemmeno presentare. No, diciamo che il mio esploit più grosso l'ho fatto a scuola, liceo, primo anno, quando non ho detto a nessuno dove abitavo, e a un certo punto in un compito in classe di inglese la professoressa ci chiede di descrivere dettagliatamente casa nostra, e io ho iniziato a descrivere dettagliatamente casa mia. Ovviamente con... Ti hanno mandato in infermeria pensando che avevi qualche problema? No, ho iniziato a dire qui c'è questo, qui c'è quello, ci sono stanze di qua, quelle altre stanze di là, e alla fine ha detto io vivo in un castello, punto. E allora c'è stata un'esplosione quando è stato letto questo compito, perché la professoressa arriva in classe e dice: ragazzi, qui ho trovato questo compito, lo voglio proprio leggere. E così tutti hanno saputo dove vivevo, non l'avevo ancora detto. È stato molto divertente. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Sì, ma adesso ho capito. Diventerai grande anche te. Sono grande io. Vabbè, grande nel senso che prima o poi dovrai dividere il tuo castello con un principe azzurro a tua volta, o no? Ma io ce l'ho il mio principe azzurro. E te lo sei portato? Te sei portato a canzone? Certo, assolutamente. Ah, beh, allora è tutto così fa. Quindi anche lui è venuto al castello. E lui cosa ha portato in dote? Oddio, se stesso. È un sognatore anche lui. E io avevo bisogno di una persona così, perché una persona... Beh, un sognatore ha attaccato con amore il suo cappelluccio nel tuo castello. No! No, non è così. Non è una cosa così. Non è un matrimonio di interesse. No. Beh, però sposare una persona col castello, scusa, è un sogno. No, tu sposi un dovere, stai scherzando. Sì, beh, perché devi portarti la legna, spaccare la legna, pulire le stanze? Guarda che andare a vivere in un castello è una scelta che comporta... Ma è anche un lavoro? È un lavoro, assolutamente. Quindi il suo lavoro è occuparsi del castello? Il nostro lavoro, di tutti quanti, certo, assolutamente sì. Ma cosa fate? Dimmi la vita del castello, perché vivete di rendita, naturalmente. No, assolutamente no, ci spacchiamo la schiena perché un castello, come disse una volta mia madre, è come un vecchietto con la coperta corta, tu l'allunghi di qua e si scopre di là. E quindi cosa fai? Tu passi la tua vita a cercare di occuparti di questa cosa enorme, a condividerla con gli altri, perché ovviamente... Ma l'avete messo a rendita, diciamo, l'affittate, fate cene, fate pranzi? Allora, sì, ovviamente abbiamo organizzato tutta un'attività turistica attorno al castello. Perché sennò non mi spiegavo da dove venisse tutto, chiaro? Vabbè. Beh, mia madre è un imprenditore fondamentalmente come mentalità, e quindi lei, diciamo, che è riuscita a creare tutto un progetto che ci permette di fare questa vita. È stata una scelta che abbiamo dovuto condividere tutti, perché naturalmente serve il lavoro di tutti, serve l'impegno di tutti, e quindi da sola non avrebbe mai potuto farlo. Quindi è per questo che ti dico che, insomma, io e mia sorella abbiamo dovuto trovare due persone che condividessero da una parte il sogno, perché sennò non ce la fai a condividere questo stile di vita, e dall'altra parte avessero le capacità e le passioni per farlo, perché devi avere certi tipi di interessi, ovviamente. Comunque la tua vita, la vostra vita ormai si svolge nel castello, è il vostro mondo. Sì, questo è il... Se è così impegnativo non è che vi potete allontanare. Sì. No, non tanto. No. Poi io penso anche, meglio di un castello cosa c'è? Uno quando dice vado in vacanza, dove va? Se già stai in un castello. Infatti devo dire che sì, cioè... Fai un giro in metropolitana, per cambiare aria fai un giro in metropolitana. Volentieri, sì, ogni tanto lo si fa volentieri, giro in metropolitana, vedi un po' di persone. E poi devo dire che quando mi capita di farlo mi rendo conto che il mondo intorno a me cambia e io esco troppo poco. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Senti, ha tutte le caratteristiche del castello, sì, che si rispetti? Assolutamente. Compresi fantasmi, torri? I fantasmi, assolutamente sì. Ma ci sono i fantasmi? Non me lo dici? Ce ne sono tantissimi. Beh, non lo dico mai, perché se uno non ci crede tende un po' No, ma io ci credo. Anzi, avrei difficoltà a pensare a un castello senza fantasmi. Esattamente. Abbiamo una leggenda molto forte ambientata nel Medioevo, nella metà del 200, di una fanciulla che venne murata viva dal marito perché sospettata e accusata ingiustamente di averlo tradito. Quindi lui la fa fuori murandola viva nelle segrete. E tu hai trovato questa... dove è sepolta questa? Allora, io non l'ho trovata, noi l'abbiamo vista, l'abbiamo sentita, ci chiama e soprattutto ha partecipato largamente alla nostra storia qua. Ma come la evocate? Con noi non la evochiamo, no. Senti la voce? Sì, a volte capita quando sei in una situazione particolare, sovrappensiero, in uno stato creativo, ti senti chiamare o ti succedono delle cose, con la coda dell'occhio vedi magari un lembo di una veste bianca. Ma hai individuato il punto preciso dove questa signora... Sì, pensiamo di averlo individuato. E avete provato a smurare, a vedere che c'è dentro? Perché? No. Io sarei curioso. Ma perché? Certo che siamo curiosi. E dove l'aveva seppellita? Dove l'aveva seppellita? La seppellita in una parte di antiche cantine che secondo noi oggi non è più raggiungibile, perché durante la Seconda Guerra Mondiale le cantine sono state un po' manomesse. Il castello è tornato protagonista, diciamo, in quell'epoca della storia, e è passato dai partigiani, fascisti, nazisti. Ah, ci hanno fatto loro... quartier generale come sempre i tedeschi. Esatto. Come accade, succede sempre. Sì. E sì, poi qua sopra c'è un petrolio molto raffinato, diciamo, che serviva per far andare i carri armati, quindi pare che fosse una zona, insomma, molto ambita. E loro, i tedeschi, si sono sicuramente portati via delle cose che stavano nel castello e hanno forse lasciato delle cose, perché ci sono delle parti murate recenti, risalenti a quell'epoca. Non è curiosità di aprirli? Io morirei dalla voglia. Non è semplice. Perché? Non è semplice. Beh, intanto per la struttura. Sì, esatto. E poi devi considerare che le cantine sono state scavate nella roccia in epoca antichissima, già addirittura in epoca romana. E quindi è molto difficile capire dove andare a scavare. Ovviamente ci vorrebbe uno studio approfondito. Ma oggi sono le sonde con le telecamere, vanno dentro le piramidi, fanno di tutto. Hai ragione, ma te l'ho detto che non siamo miliardari. Ah, quindi dacci il nostro tempo e scopriremo. Allora, che diciamo, intanto c'è una signorina seppellita viva dentro il castello. Sì, cos'altro c'è di fantasmatico? Beh, il marito che l'ha seppellita, che pare che si senta ancora il padrone del castello, giustamente lui. Ah, quindi loro hanno una loro, continuano ad avere la loro vita relazionale da fantasmi? No, loro continuano ad avere una sorta di volontà, da quello che abbiamo potuto capire. Ed è per questo che di fondo tendiamo a considerarci dei custodi metafisici più che dei proprietari. Quindi scusa, possessivi. È una storia d'amore non risolta. In realtà è una storia epica, sembra Otello. Lui l'ha uccisa pensando che gli fosse infedele, ingiustamente. Quindi ne era innamorato, pare follemente, sì. Ma crudelmente e in maniera criminale, capito? Beh, l'amore di un condottiero di quell'epoca che non aveva studiato ma era abituato a possedere è un po' diverso da all'amore a cui possiamo pensare noi oggi, quindi comunque sì, diciamo sì, che... Anche oggi gli stalker dicono che lo fanno per amore, certo. Ma in realtà oggi è criminale, allora diciamo era in un contesto non giustificabile ma comprensibile per il tempo. Sì, certo. E poi pare che ci sia un monaco, io stesso ho sentito dei canti gregoriani quando ero piccola. Che canta, anche lui seppellito? No, allora io so che ci sono i monaci perché è stata vista un'ombra di un uomo incappucciato esattamente dove io a 13 anni ho sentito dei canti gregoriani di notte. Quindi è per questo che parliamo di monaci, però non sappiamo storicamente nulla di loro. E poi sappiamo che c'è un cavaliere nella zona della torre perché è stato visto più volte, sempre di sfuggita, e anche la torre è piuttosto animata. Che fa compagnia al monaco, così sono due e due. Beh, sono i due estremi della struttura, però diciamo che sì, in qualche modo... Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Ecco, tu riesci a vivere serenamente anche questa dimensione non certo banale, sapere, allora, immaginare, sentire visceralmente che comunque ci sono delle presenze, al di là del fatto che poi la razionalità molte volte dice ma no, non è possibile, sì, però se le certo. senti, a forza di viverci, ci sono, è chiaro. Io sono una fifona, non farei mai una seduta spiritica e non ho mai desiderato di vedere o sentire qualcosa, nel senso che so che morirei, ma le volte che mi è successo mi sono raggelata e subito dopo è diventata una cosa quasi normale. E nessuno ha voluto approfondire in famiglia, cioè chiamiamo un medium, qualcuno che se ne intende, un cacciatore di fantasmi. Ci hanno detto chiaramente, allora abbiamo degli studiosi che si occupano di rilevare queste presenze, periodicamente vengono, fanno i loro accampamenti brevi, registrano, fotografano e poi si portano via il materiale e lo studiano. Gropparello, scusa, il castello in cui vivo è uno dei castelli assolutamente certificati, diciamo, con fantasma, quindi... Dov'è questo castello? Che finora non ce lo siamo detti. Gropparello. E dove sta? Gropparello è un paesino sulle colline in provincia di Piacenza. Ah, in Piacenza. E quindi diciamo che sì, gli studi ci sono, però cerchiamo di fare delle cose che non siano delle ricerche esplicite di contatto, perché ci hanno detto chiaramente di non farlo, specialmente quando io e mia sorella eravamo piccole, perché se tu per caso scateni qualcosa che dopo non riesci a controllare, perché ci sono grossi problemi di comunicazione, non stai parlando con una persona come te, quindi si rischiano i malintesi. Lascia aperte delle porte, poi te li ritrovi tutto lascia il giorno. Lascia aperte delle porte, te li ritrovi e cosa succede? Che si attaccano ai più giovani. Allora io e mia sorella eravamo piccoline perché avevamo più o meno 13 anni, 14 anni, quindi rischiavamo di andarci di mezzo noi. È come nel film Poltergeist, vi portano sottoterra, è una cosa terribile. No, credo di no, però adesso io ho un bambino di 2 anni che è il primo che nasce qui. Ah. E quindi capisci che, da segni strani questo bambino. Sì, da segni strani questo bambino, ogni tanto saluta guardando nel muro, poi ogni tanto mi indica il soffitto dicendo che ci sono i nonni e io gli dico... Quindi ti dice io vedo persone morte? No, non dice questo, è piccolino, quindi lui dice delle paroline, però diciamo che si incanta a guardare qualcosa, ride, agita le manine e ultimamente, insomma, io ero lì con lui nella stanza, facevo altro, a un certo punto ho sentito che lui chiacchierava, mi giro e vedo che sta guardando di fronte a sé, parla, cioè dice così, nascondesse, e poi dice ciao, e allora come niente fosse sono andata avanti a piegare i panni. Ma so che i bambini le vedono, perché i bambini sono ancora puliti, diciamo, non hanno i figli. Non hanno il pregiudizio nostro. Quindi esatto. Tu adesso vivi, diciamo, avete una folla per casa, tutto sommato, avete i visitatori, i fantasmi, che sì. fanno anche da babysitter, sì. Quindi ti intrattengono il bambino e è possibile riposare. Sì, abbiamo parecchio movimento. Diciamo, la tua libera uscita quanto dura, no? Perché io fra un po' devo scendere dal treno. Quanto ti è concesso di stare fuori dal castello? Poco. Me lo concedo poco, perché ho tante cose da fare che mi piacciono, quindi le faccio volentieri. Quindi ci rincontreremo magari fra 1000 anni su un treno, tu sarai ancora lì perché avendo questa dimestichezza con i fantasmi. Esatto, per te il tempo che mi affitto ha una condizione diversa rispetto al nostro. Ti ringrazio tanto. Sì. A presto, salutami ciao. Tutti, fantasmi sì. compresi. Ciao. Ok, ciao. Ecco, adesso mi spiego. L'alone singolare che attraversava lo sguardo di questa ragazza mentre l'avevo davanti. Una persona che ha la possibilità di entrare e uscire da quella zona intermedia in cui noi sappiamo esattamente che possa esserci qualcosa, ma se non lo tocchiamo, se non lo vediamo, pensiamo che appartenga al regno delle favole, al regno delle superstizioni. Una famiglia felice che vive in un castello a contatto diretto con i loro fantasmi e quindi facilmente non può che capire e comprendere quello che è il mio errabondare settimanale attraverso fantasmi non proprio, ma persone che appaiono e scompaiono come fantasmatiche presenze. If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. At the crossroads a second time, make the devil change his mind. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Quando attraverso la mattina presto in treno le zone che sembrano paludose semplicemente perché ha piovuto, ci sono corsi d'acqua, non posso che correre con la memoria a dei miei ricordi infantili. Anch'io ho vissuto da 0 a 10-12 anni circa in un posto dove c'era un laghetto e naturalmente era il luogo più proibito per noi ragazzi. Non andare al laghetto che è pericoloso, l'acqua è fonda, il lago è insidioso. E noi non vedevamo l'ora, io, mio fratello, i nostri amichetti, di andare al lago, nasconderci sotto i salici piangenti e fare il bagno in quell'acqua paludosa, in mezzo ai rospi e alle bisce d'acqua. Sogno ancora di poter avere una zattera. Da piccolo me ne ero costruita una con mio fratello e ci attraversavamo un laghetto nella nostra terra, fino a che i miei se ne accorsero e ce la fecero distruggere. Era pericoloso il laghetto, era molto profondo ed insidioso, circondato da salici piangenti e giunchi. D'estate si sentivano i rospi in amore e le bisce sotto il sole nuotavano come saette con la testa fuori dall'acqua. Quel posto aveva un odore di fango ed erba marcita. La mattina presto andavo a pescare mentre era ancora buio, ma i pesci che potevo prendere all'amo erano tinche, piene di spine e poco mangiabili. Chissà perché mio padre mise le tinche e non le carpe, che invece erano buone da mangiare. Prevalse anche in quel caso il suo solito istinto mortificatorio di ogni piacere. Per questa ragione sono stato allevato con l'idea che tutto quello che può rendere felici vada visto con sospetto e possibilmente occorra astenersene. Anche nelle piccolissime cose sono stato abituato a rinunciare subito ad ogni offerta sullucherosa. Le signore che ci portavano a fare visita aprivano davanti a me e mio fratello scatole di dolcezze e cioccolatini che mai ci saremmo sognati di vedere entrare in casa nostra. Ma noi dicevamo no grazie, non ci va, anche se avevamo la bava alla bocca. Eravamo stati educati così. La santa micragna da dover ricordare prima di ogni azione era un concetto non necessariamente ispirato a ristrettezze oggettive. Era un principio assoluto. Un'azione, se porta piacere gratuito, va repressa all'istante. Per tutta l'adolescenza e gran parte della prima giovinezza, questo principio di vita mi rese sì persona austera verso le mollezze della gola, ma molto anche verso quelle della lussuria. Ogni tanto mi capita di abbioccarmi in treno. Sì, anch'io sono un essere umano, anch'io mi addormento, anch'io mi lascio cullare da quello che è il moto delle ruote sui binari, dal rumore del treno, che oggi in realtà è più che altro un sibilo, i treni corrono velocissimi, non è l'antica cantilena dello sferragliare dei vecchi treni. Però il treno comunque a me istiga il sonno, istiga il dormire. E mi capita a volte di fare in treno un sogno ricorrente, che facevo spesso da bambino, faccio un po' meno adesso che sono un po' più grande. Io sogno ogni tanto di volare, tutti sogniamo di volare, è il più inconfessabile e il più condividibile dei sogni. Ad ognuno di noi qualche volta è capitato di ricordarsi la mattina di aver sognato di volare

Io sono per la distruzione sistematica di ogni concorrente maschile, anche semplicemente nel rapire un sospiro amoroso, anche semplicemente nell'esistere. Sì, noi siamo così, siamo fatti così, non tolleriamo la concorrenza, anche se poi ormai siamo ampiamente in pensione e ampiamente a riposo. Questa ascoltatrice mi pone un problema riguardo l'illusione di eternità che sempre accompagna l'inizio di un rapporto amoroso, e mi sembra iniziare anche piuttosto bene dal punto di vista della consapevolezza che nulla è eterno nella nostra condizione umana. Caro Nicoletti, che te ne vai per treni a raccogliere le nostre lamentele amorose, senti questa e fanne tesoro per quando sbatterai la faccia contro la porta dello scompartimento. Accadrà anche a te, stanne certo. Ti premetto che io ho sempre immaginato quanto faccia soffrire un amore che si dilegua a quatton quattoni, ma sono sempre stata convinta che la scomparsa senza preavviso sia forse anche la più generosa maniera per chiudere un rapporto. Si evitano lancinanti disillusioni e inutili settimane di spiegazioni, pallide ripresine, penosi rilasci. La mia esperienza di femmina single 40 e più enne, soprattutto curiosa e non troppo avara, mi aveva convinto che il punto di vista nei rapporti passionali è variabile e asimmetrico. Più tu vedevi come possibile il consolidamento, più a lui probabilmente la stessa idea faceva venir voglia di scappare. Oh, perfetto, finalmente una donna che la pensa come noi. Una donna che ha in mano quella sorta di cronometro, anzi di countdown, che segna un conto alla rovescia quando scocca la prima scintilla amorosa. Bene, l'amore non è altro che un sistema orologeria che inizia a partire quando noi cominciamo ad essere appassionati per un'altra persona. L'importante è sapere che alla fine suonerà quel campanello e qualcosa naturalmente si spegnerà. Basta non illudersi. Una donna perfetta, la donna che tutti vorremmo incontrare. Almeno ci chiariamo subito dall'inizio. Ma sarà veramente così? Per prevenire invece che curare, ho sempre messo in atto la tecnica detta della pantegana invisibile. La strategia prende il nome dal sorcio urbano che, come noto, quando ti attraversa la strada si dilegua in un istante e sembra non esserci mai stato. Non avevo però fatto i conti con la possibilità che potessi essere anche io prima o poi colta da una dolorosissima forma sindrome da sparizione, da cui pensavo di essere del tutto immune. Ho conosciuto un mio coetaneo e dopo anni in cui non credevo di poter innamorarmi di nuovo, lui mi ha smentito. Anzi, ha fatto di tutto per smentirmi, corteggiarmi, starmi vicino e ascoltarmi. Piano piano ho iniziato a pensare che condividere le proprie giornate poteva essere bello. Ho iniziato anche a immaginarmi meno libera di fare a 360 gradi ciò che volevo, ma mentre lo immaginavo ero curiosa, stimolata, un po' felice. E proprio dopo appena 3 mesi che ci frequentavamo, lui è scomparso. Non mi ha scritto, non mi ha cercato più. Ho chiesto spiegazioni, ma mi ha detto che dovevo lasciarlo stare perché era un momentaccio. Sono passati altri 3 mesi e il silenzio tombale dilaga. Quando lui si è presentato nella mia vita, era un momentaccio, ma l'ho fatto entrare lo stesso. Adesso cosa fa lui? Ma dico, perché tutti spariscono e non hanno il coraggio di uscire con la stessa delicatezza con cui entrano? Perché si entra delicati e si esce tutti d'un colpo. Perché è chiaro, l'entrata deve essere sempre delicata. L'entrata è fatta in punta dei piedi. L'entrata, perché sia efficace, deve essere lentamente condivisa e bisogna passo passo capire quali sono i segnali della cedevolezza. Ma una volta che si è dentro, una volta che ci si è accasati, una volta che il cuore di una persona è in nostro possesso, è chiaro, non sappiamo più che farcene di quell'involucro. Ma è così, non so, è fisiologico, non è perché siamo crudeli, siamo spietati, siamo superficiali, siamo bambinoni. Vale per gli uomini e vale per le donne. L'amore, quando è consumato, non ha più ragione di esistere. È inutile cercare di tenerlo in vita. Quindi si rassegni che il suo amore è scomparso in maniera così rude, così brutale. Ricordi la delicata entrata in scena e cerchi, se possibile, di dimenticare l'uscita repentina. In fondo anche lui è stato, quello che lei ci ha insegnato all'inizio del suo messaggio, una perfetta e inappuntabile pantegana invisibile che passa così veloce che, dopo che sia passata, noi immaginiamo che quel topolone ce lo siamo sognato. Tessin.